Fufia! Fufia! Chiamiamo! Lo sapevo. No, poi non è che ti potevo rispondere qualcun altro, perché sai la fila, c'è. La fila, ma non so. Chi è che non online e fa queste cose qua, nere e rosse? Muovimi. Andà bene in mela, è bello, combinando. Scusatemi, adesso deve venire Robertino a caricarmi la condizionatore, domani deve venire Fabietto. Sono distrutto, domani devo andare dopo la mattina ad andare all'alleanza. Aspetta che cambio radio, mi dice come sta uscendo questo, come mi senti, aspetta. Eccolo qua, sempre qua, bello e pimpante, sono sempre io, il bello della frequenza. Davvero? Ma sai che ti sento meglio in questa radio? Più performante, più tutto. Questa radio com'è? Sembra un MB. Sì, lo è, però è il president questo, eh? E non si conosce dalla barattolosità. Sì, vabbè, anche l'altro magari un po' meno. Davvero? Ma è amplificata, sì. A voglia. Sì, Lu, in questa radio qua ti ascolto molto più amplificato. E magari c'hai i filtri là. Oggi è pizzata, oggi ho comprato il mio babbo. Ma è pizzata, lì ci vuole mezzo porcetto con il lardo. Ogni domenica così non va bene, dai, che poi ingrasso. E quello. Poi quando per un amico mi offre lardo. Vengo qua e mangio un porcetto con lardo. Secondo te bene mi fa. No, polistirolo poi, ui. Bisogna evitare. Bella fresca, neanche il bagno mi sono fatto, c'è l'acqua ghiacciata. Ah no, con questo vento. Oggi niente, tutto relax, mi sono fatto poc'anzi dal divano. E ciccia, stamattina sono sceso giù a vedere le cose. Ah, sei andato? Sì. Adesso vediamo. Più tardi, se ne voglia, chiamo Massimiliano, sono domani mattina, vado in ufficio, mi sbrigo due cose e poi lo chiamo. E poi magari iniziamo, dai. Tanto mi ha detto che lasciamo le cose alla 50, quindi si può iniziare. Guarda, poi noi pronti siamo col carbone. Andare. Trico. A Franco, sentito l'hai? A Franco? No. No, niente, neanche il radio. Così, volevo sentirlo. Sono un po' senza sentirlo. Franco. Dai, che così Roberto non vede carica la macchina. Aspetta un attimino. È arrivato, devo mollare, ci sentiamo più tardi. Ok. Ciao, grazie. Ciao, più tardi. Ciao. Frank. La 2-3-3. Qua, Fufia. Attenzione, binario 23, c'è qualcuno, cambio? Hola, attenzione 23. Hola. Fufia. Attenzione, signor Battisio. Oh, signor Battisio! Ehi, ma ti sei scendi? Attenzione, signor Battisio! Ehi, signor Marino, buonasera! Buonasera, sta a posto? Sì, è niente inutile. Era ora, meno male. Meno male di cosa? Che sta a posto. Che? Vabbè, tu sì, che te ne affutti. Come stiamo ascoltando adesso? Usando un Comercast che è su 24, minimo la 40 anni. Solo? A tu mai ti mando di te. Andiamo. Sì, gliel'ho portato, sto arrivando dal paese, dopo patata. Gli ha portato? Sì, gliel'ho portato, tutto bagato, tutto va. Meno male, fatto, ma non dovessi. Tu infatti. Fate così. Ecco Ferito, buonasera, siete due. Buonasera Gio Maria, ben al sasso. Avanti il sole per Gio Maria. Buonasera signor Gio Maria. È un paese da bui patata, ero. Un po' di strada è fatto oggi. Certo. Ma perché noi? Non so come nenni. Era fresca oggi la giornata, in macchina era tranquillo, va. Già c'era caldo stamattina quando sono partito. Sono partito a luna da ritirare lo massaggio e tutto. Sono odorato a luna. Attenzione signor Tore, si ascolti Boduzò. Sì, avanti Boduzò, buonasera. Buonasera da Boduzò, buonasera a tutti, e quelli brutti che anche quelli hanno ascoltato. Avanti signor Tore, buona serata ancora. Sì, signor Battisti, andiamo. Avanti Mari. Sì, buonasera signor Battisti, da Reggio Maria e da tutti avanti Battisti, cambio. Un attimino, sto rientrando subito. Ok. Marino, non mi ascolta. Ho già detto, ma... Certo. Bella, sia Bacchi. No, un momento non ascolto niente, vorrebbe basta. Mi ascolti, io. Io sì, se ti ascolto bene. Aspetta, sei a fondo scala, pure. Radio perfetta. Attenzione, signor Marino. Marino si deve essere allontanato. Ciao Marino. Sei allontanato adesso, Marino. Buonasera, signor Bacchisi, ben sentito, ben estratto. E dai, rimanga in ascolto però, Bacchi, dai, riprendi e fai girare con Tore, dai. Sì, ciao, Gio Maria, buona serata, grazie per essere stato per salutare. Mi fa sempre piacere sentire gli amici. Buon cuore X, allora, avanti, so. Lo signor Bacchi, sono più lontano di patata oggi. Non ho capito niente, cosa hai detto? Ero più lontano di patata, dopo patata. Altre 40 km dopo patata, normalmente metti si chiama, in un paese. Ma è facendo questa radio, dicevo male. Santo Domingo. Santo Domingo, già tutto da una frugu. Normalmente come ti si chiama, c'è un'altra via di giù. Patalese si chiama, là. No, è 40 km dopo patata. E dove avete modulato? La stai dicendo, so. Guardate che 40 km dopo patata, prima di cosa, di buono, bene tutti, come ti si chiama, boh. Ho capito, va. Avanti, gigante. No, è uscito il gigante, non c'è più, è andato a Ciogga. A Ciogga, venuto a Ciogga. A me, cucchia! Fiorellino. Pizzoni d'oro, buonasera a tutti comunque. Ma cazzo, tu sei sempre dito che siamo sempre più afferrato. Abbassa un pochino, cazzo, che non si comprende da cosa si dicendo. Oh, avanti con la macchina della macchina, ti scuro. Buonasera a tutti, ciao a tutti, dai. Ma ti mando un pezzo di ghiaccio, ti mando. Manuele, buonasera, ben alzato. Sì, non si può parlare, dai, non mi ascoltano. Buonasera a tutti. Sì, devo battere, ormai. Avanti, si dà. Oia. Stacca qualcosa e sta fischiando. Sta fischiando perché c'era un amplificatore acceso. E allora non vanno d'accordo. E allora fischia. fischia attore, fischia. Sì, fruscia, fruscia. Andiamo a fruscia. Bisogna che recuperi l'autoparlante da quello che ci sta buttando, lo metta qua. Perché a me sembra che questo sia scarso. Andiamo bene, andiamo, dopo. No, basso, sai. O sono basso io, sei basso tu. Quando sei alto, scarpe tutto. E 1,70 m se ti basta. 17 di centimetri di autoparlante. Altro voi. Basta, basta dell'aria che ti ascolto. Marino, avanti, prima avanti voglio sentire come cavolo sta uscendo. Va bene questo passaggio, 1, 2, 3, 4, torre va benissimo e tu va benissimo, fino alle 9 e 10, radio 5 per te. A torre l'ascolto a spezzettato, a te ti ascolto perfettamente bene. Torre c'è l'estate, si fa male. E vedi già dove ti ha spezzettato, ma aspettatino, no? Non lo gioco io, cosa, io sto uscendo tranquillo. Ma mi intendava. Basso sì, basso di radio, non so perché. Già ti entra una bomba, tu sei della terra. O sei sotto il letto? Sì, già raggio sotto a Ruretto, già raggio. Andiamo e andiamo, boh. Ma non è avanti. Sì, ma lì, ascolta, quella roba trovata, dai. L'ho trovata, mi stavo di avanti. Ho buffato il possibile, guarda. Fino a poco fa stavo cercando. Vai, dopo, dopo la piazza, dai. Sì, dai, rimane quelli, riprendete pure, dai. Tanto almeno mi ascoltano. Sì, avanti, da qui. Gigante. Ho sbagliato anche un altro microfono. Stiamo parlando con quello di che ha spento. Andiamo, Massi, bobo. Andiamo. Ma è tutta colpa di sole. Dora qui fa me che mi ha portato spezzettato. Sono tornato a Rassi, questo è pronto a partire in campagna domani. Ah, ciao, mi. Bebe. Ciao, va bene questo, dai. E non lo porto in campagna questo qui, invece di portarmi il mini, mi porto questo, lo lascio giù in campagna, qualche domenica, qualche chiacchierata me la farò. Già così, non andiamo dove andiamo, già così. Vabbè, tutto quel paesino arbacchigio che ti rendi? Io e la lei adoro, non so cosa, io sono straniero. Tu di me? Ma chi? Hai detto, più di me sei straniero? Sì. Chi è? Ma sono straniero, non si mi ha chiesto. Sì, ho detto, più di me ti senti straniero? Sì, io sono campagnolo. O straniero o campagnolo? Campagnolo. Io sono della valle di Zecoso, di che cavolo si chiama? Il paese delle Angurie, la Valle d'Oria. Io sono della valle di Valle d'Oria, il paese delle Angurie e dei Meloni. Andiamo. Dai, andà. Tu e Meloni Angurie e vieni a Valle d'Oria. E sarà così. Io sono il paese del Ciliegio. In tutti i modi, Marino, io sto vendendo un po' di accendini, un po' di batterie, stilo, micro stilo, tutto. Tutto presto a fare. Piazza Pulita, avanti. Grande affare. Da quanto tanto, un centesimo? Anche quattro cappelli o cinque, quello che volete, tutto per 100 euro. Insomma, posso dare subito questo. Sono dei grigenti che si bruciano, si pilano il fuoco con accendini. Sono accendini assicurati e garantiti. Prendi 5 e accendi uno. Ma 3 ne accendi uno, giuro, andiamo a Marino, domani che sia un bancarello. Domani c'è lì come c'è stato, Domani c'è qui c'è il basso, sono le bancarelle, c'è della piazza, ci piace un banchetto e vedi tutto qua qui. E io poi il fatto che mi devo procurare le borse di nylon, quelle grandi, perché hai visto come viaggia l'africano, con le borse grandi. Cacciatore le borse. Bambino, vivo, bambino, la borsa. Ho già visto. Allora, cosa che vuoi comprare? Ti ho detto che da tre non ne funziona uno. Te sto dicendo tu cosa vuoi comprare. Accendi gas, batterie, capellini, e poi forbici e un po' di tutto, vai. Banane. Poi cos'era l'altro, Maria? Al ventilatore. E anche banane, insomma, e voi banane? Magna a dire. A batteria sono. Se no, sono tutte le zacchine di Dio. Maledo cazzo. Sempre il solito, sì. Sì, ma lo cazzo sei anche malizioso. Ciao, quelle banane per giocare ai bambini con le faccine, capisco? Io devo capire, c'è lui che si crede. Banana cicchista, le conosci tu? Tacchi, gigante. Andiamo a prendere l'acqua, un attimino, il gigante, sto andando a prendere l'acqua. Un momentito. Come? Sì, andiamo, andiamo. Così, è un sentato. Dove sei andato? Oh, c'era un'altra persona con me. E poi siamo andati a fare il passaggio del carrello. All'una si è combattuto. Lui è partito prima e io ho proseguito con questo qua, sapeva la strada, ovvero. All'una siamo battuti a aree 2 e un quarto si è arrivato in Chivi. Vabbè, Stava il gommone, bene ci stava. Già va bene, andare. Gigante, sei arrivato? Gigante sta applicando l'acqua, non so. Boh, signor Marchisio, tutto si è sudato. No, oh, sta per una partita scorretta. Posso dare un litro di l'acqua, boh? Andare. Andiamo bene. Sicuramente mi si cudì la faccia al gabbidari. Mettiamo un po' di franchezza, va, non posso immaginare. E adesso tieni, ti mangi un morso e ti appoggi. Avanti, dove Gianni? Mi stai arrivando a Santiago 6:30, quasi 7, da ore 5 Gianni, avanti. Andare, il viadore, andiamo lì. Aspetti, passa attore già, attore per Gianni. Di cosa? Di segnale mi arrivi 8:30 per la radio e così. Vai su. Prova a allontanarti il microfono a vedere dalla bocca. Vedi che c'è una differenza enorme. Perfetta, buona, perfetta, ok. Ok, già. Andave, ti passa Bacchisio se ti ascolta. Attenzione, signor Bacchisio. Chiuso la ripresa, riprendo io che mi stanno chiamando. Ciao, Otto, a domani sei con Cine. Ciao Gianni, ben sentito, domani sei con Cine. C'è anche Bacchisio, salto nel Sottoni e per me QFC che mi stanno chiamando. Otto, le riprendi. Ok, signor Bacchisio, c'è uscito basso, forse è attaccato un marino. Se sei uscito basso, andare. Riprenditela. No, è a casa sua. A cui non riesco più a farvi danni. Andare. Ciao signor Marì, stammi bene. Non ti ho salutato. Ok. Buon corretti. Riprendi già. Ok, ciao signor Bacchi, ci sentiamo alle prossime. Ciao, anch'io sto chiudendo che non avrò posto più, non riesco mai a farvi dare un giorno. Andare, ci sentiamo, dai. Ma che mi sono durato da un paese da Boipattada e sono stanco morto sono. Ciao.